una spalata, la luna mar chiara, furre di fisce ne c'è farà l'amore. Se ne vuota la lunne del mare, per la brizza con lo colore, quando spalata la luna mar chiara. Amare chiare ci sono per esta, la passione mia già zuzzulea, e non carro per un'ora, in tora testa passare, qua bisogna mormorea. Amare chiare ci sono per esta. Caristelle solo certe, lo sappi tu che caro tiene in frota. Sti doge stelle risocce sulla marta, ritalo correrete con ripote, e ci dice caristelle solo certe. C'erane caro di calore a roce, quando mai tanto tempo ci ho sperato. E fa compagno di suona, e con la voce stasera una chitarra giù per tavolo, e date coro di calore allora.